Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buona serata a tutti. Oggi è martedì 10 maggio del 2011. Questa è Blu Radio Sera. Io sono Flavio Bilato, do il benvenuto anche a Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. E come d'abitudine ormai al martedì sera non siamo più soli Maurizio, perché da un po' di tempo diamo molto spazio a quelli che sono i live di casa nostra, i live di Blu Radio Veneto. Eh sì, una cosa molto bella, decisamente positiva, non essere più soli, far sentire musica e suonare musica ogni martedì, ogni mercoledì, ogni giovedì, Flavio, è una cosa molto interessante. Assolutamente sì, siamo stati catalogati anche tra le radio live, per cui insomma più di così cosa vogliamo? Niente, vogliamo salutare i nostri ospiti, gli ospiti di questa sera, quelli che vengono a suonare live, e quindi diamo il benvenuto a World End City, ok, quindi la... diciamo la città alla fine del mondo, se mi viene concesso. Esatto. Ecco, se parlate dal microfono quello principale è meglio. Ecco qua, chi è il portavoce? Eccolo qua. Antonio, no, stanno facendo la conta tra Antonio, Michele. Il primo che riesce a arrivare Diego. Al microfono, eccolo qua. Fabrizio. Ecco qua, quindi salutiamo Antonio che ci spiega ciao il perché. A tutti. Adesso erroneamente ho detto West End City, però è World End City, quindi la città alla fine del mondo. Come mai è nato questo nome? Voi siete italianissimi, siete tra Padova e Treviso e è un nome così particolare. Da dove viene? Fabrizio, tocca a te allora. Ciao a tutti. Ciao. Allora, dicevo che è stato una combinazione casuale di parole, sì. Che poi si è composta insomma in questa espressione, che poi alla fine per chi fa rock and roll diciamo qui nel Veneto è un po' raffigura un po', come dire, l'identità di chi si ispira magari a un modello che è inglese o americano, e rispetto a questi paesi che sono la patria del rock and roll è un po', come dire, ai confini, no? Quindi alla fine del mondo. Quindi, però, insomma, questo poi è un significato che gli vogliamo dare adesso, insomma, ma comunque è stata una combinazione casuale, come molte volte capita. Sì, decisamente. Dimmi. No, stavi fiatando troppo vicino al microfono. Posso andare avanti? Sì, a me interessava una cosa. Sì, sì. Questo è un nome venuto fuori così casualmente. Però, sì, casualmente, ma all'inizio c'era un'altra entità, un'altra formazione. Tu facevi parte all'epoca di un'altra formazione che praticamente ha fondato praticamente questa. Sì, diciamo che il nucleo iniziale... Ditemi cosa. Sì, no, devi avvicinare il microfono. Devo avvicinarmi. Perché allora, per chi è in ascolto, qua siamo praticamente in una ragnatela di cavi, microfoni, cuffie. Ma è bello, siamo così, è bello. Fermi, live. Immobili, non è possibile muoversi, quindi ogni tanto sentite qualche respiro, qualche ansimo, sì, qualche rantolo. È solo perché siamo tutti perché vicini, le costole vicini. Fanno male. Ma è bello così, il live è proprio così, è la passione, il feeling, ecco. I cavi, i microfoni, le tastiere. Nel senso che still è live, siamo ancora lì, vediamo se a fine trasmissione riusciamo a essere. È arrivata anche la nostra fotografa, che così poi ed è rimasta sbigottita perché dovrà tirare fuori del materiale fotografico. Sì, la Chiara è arrivata, quindi la nostra fotografa ufficiale, non sa da che parte arrampicarsi. Quindi con tanto di fili e grana. Sì, dimmi, raccontavi che il nucleo iniziale è stato, diciamo, è nato nel 2004, ed era nato come un gruppo di rock elettronico, ci chiamavamo gli Endag, e abbiamo avuto anche, diciamo, qualche discreta esperienza anche qui da noi, anche qui da voi, esattamente. Certo, ci avete battezzato praticamente. E poi successivamente, diciamo, il nucleo del gruppo si è un po' è cambiato, parallelamente un po' all'evoluzione della musica, dello stile. Siamo andati più verso un rock più terra, diciamo, di basic, certo, piuttosto che un rock elettronico. E nel 2008 c'è stato l'innesto di Michele e la formazione poi è rimasta questa, insomma qualcuno ci ha lasciato, e diciamo dal 2000 dal 2008 la formazione è rimasta quella di oggi, insomma, che è quella, spero, insomma, mi auguro, stabile. Sì, effettivamente l'elettronica l'avete persa assolutamente, musicalmente un disco assolutamente non elettronico, disco rock al 100%. Io vedrei qualcosa anche di progress in alcuni momenti, Flavio, non so se sei d'accordo. Ma leggermente, un po' leggermente, appena direi accennato. Poco poco. Avete però fatto delle facce non positive, sì, ho visto quando ho parlato di progress. Lui, ho i dischi a casa. No. Il nostro batterista invece è d'accordo per il progress. Non ci sono i... Beh, qui ci sono due fan sfegatati dei Porcupine Tree. Quindi. Ah, perfetto, allora va molto bene. Vabbè, allora, per parlare della musica dei World End City bisognerebbe ascoltare prima un pezzo. Cosa dite se inseriamo qualcosa già in principio trasmissione, così poi torniamo a commentarlo insieme? Sì, esatto, abbiamo scelto la traccia numero uno, vero? Sì, la traccia numero uno, che si intitola The Trigger. Perfetto. Che è la traccia, appunto, che apre questo nuovo lavoro dei World End City, che si intitola Secret Wings. Blu Radio Sera. Radio Sera. È già una scrollata per iniziare la nostra programmazione serale. Abbiamo gli ospiti in studio, World End City, sono venuti a trovarci per la presentazione di questo CD che è già da qualche mese in giro, quindi qualcuno già la conosce. Secret Wings si intitola l'album, la canzone che abbiamo ascoltato è The Trigger, con una grande abbondanza di rock, come lo definisco io, duro e crudo. ma proprio duro all'inizio. Come mai questo pezzo spacca, volutamente spacca? Non è che c'è un perché, i pezzi vengono così, vengono così, per cui si vede che c'era un eccesso di energia e di buona energia rock, e direi quello. Che questo è il modo migliore per farla venire fuori e per scaricarla proprio. E poi niente, insomma, noi lavoriamo abbastanza in gruppo, nel senso che chi scrive i pezzi poi li propone agli altri, e in serie di prove poi i pezzi vengono appunto poi arrangiati e raffinati. Diciamo che la sorpresa di questo gruppo per ognuno di noi, che viene comunque da varie esperienze, insomma, tutti noi abbiamo suonato in passato in diverse situazioni, è stato quello di vedere che vengono fuori subito, cioè non dobbiamo lavorarci tanto. E questo probabilmente perché c'è un ottimo affiatamento. Questa è una bellissima cosa per chi ha esperienza di gruppi, sa che non è proprio una cosa che viene da sola. La democrazia in un gruppo c'è sempre, però esatto, qualche volta è poi instabile. E questa è stata una bellissima sorpresa, il fatto appunto che c'è questa comunità di intenti, questo affiatamento proprio anche a livello musicale. E io voglio sapere una cosa, poi darò però anche a Flavio, come è nato il pezzo, questo inizio potente, l'idea di questo inizio potente, chi l'ha costruita, l'arrangiamento, l'idea di questo arrangiamento molto forte, molto d'impatto. Beh, quando sono diciamo in quei momenti in cui sono sotto l'influsso di droghe pesanti. Sta parlando Fabrizio, quindi identifichiamo già la persona. Bella bottiglia di... Pensavamo che dicessi quando sono sotto la doccia. No, allora diciamo subito una cosa che accomuna un po' tutta la nostra musica, tutto il nostro repertorio. Questo gruppo ha un'identità che credo sia fortemente rock and roll, primo punto. E rock and roll intendo rock and roll quello più prettamente inglese, quindi sì, può essere Oasis, come può essere per esempio Supergrass e altri gruppi che hanno questa forte identità. Poi è chiaro che poi diciamo si può spaziare, si passa l'oceano e si va anche a prendere qualcosa insomma di un gusto più tipicamente americano. Però nel momento in cui abbiamo siamo passati a questo tipo di sound, l'idea originaria era quella di fare canzoni che fossero facilmente suonabili, cantabili anche con una sola chitarra e voce. Cioè è stato un po' il rifiuto di tutto quello che è sovrastruttura, di tutto quello che è elettronica in questo caso. Tu prima dicevi giustamente che abbiamo completamente abbandonato l'elettronica. Lo spirito era proprio quello di creare dei pezzi che stessero su da soli, ma con un uso tipico del rock, di chitarra, basso, batteria e voce. E che fossero quindi facilmente ricreabili, cioè che fossero un patrimonio non solo del gruppo, ma un patrimonio di chi ascolta. Io mi sono trovato molto spesso ad apprezzare, oppure ascoltare e apprezzare ovviamente altri stili musicali, con la difficoltà poi di non riuscire poi a, non so, a ricrearli, no, personalmente. Cioè, ci sono canzoni che tu ascolti con piacere, ma senza quella strumentazione, senza quell'arrangiamento, senza quell'atmosfera tipica di quella registrazione, di quella strumentazione utilizzata, poi è difficile ricrearla nel proprio mondo, ecco, io ho pensato invece a chi vuole poi alla fine prendersi una chitarra e magari provare a risuonarsela. Cioè la gente può memorizzare immediatamente il pezzo, cioè l'inserimento della melodia tra virgolette che è essenziale nella costruzione del pezzo, sei d'accordo? Sì, no, pagando la SIAE ovviamente. Ah beh, chiaramente, sempre pagando la SIAE, sempre pagando la SIAE, vero Flavio? È intervenuto l'economo del gruppo, a quanto abbiamo capito, Diego, nonché batterista, a precisare, a dare questa precisazione. E comunque, se mi viene concesso Fabrizio, manca comunque sempre un po' di personalità, quando uno vuole rifare una canzone di un altro, possono esserci tutta la strumentazione uguale, dettagliata, speciale, però se manca la personalità non si riuscirà mai a farla uguale e con lo stesso pathos. Sì. Sono d'accordo, insomma, ma questo sta nella natura della musica, cioè qualsiasi cosa viene reinterpretata nel momento in cui diventa patrimonio condiviso, viene forzatamente reinterpretata, ed è anche la cosa bella, no? Cioè, nel senso che oggi si stanno riprendendo molto, insomma, pezzi famosi degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70, reinterpretati, rimescolati, riarrangiati. Sì, lo ha fatto anche Jennifer Lopez, purtroppo, sì. Ecco, cioè, recentemente anche. Ed è una cosa bella, no? È una cosa bella, credo, la ricchezza della musica, no? Sì, qua mi intervengo anche io. Sentiamo Michele cosa da dire. A proposito di Jennifer. Sì, no, scusa. A riguardo invece di questo discorso del reinterpretare o coverizzare, sì, come si vuol dire, canzoni già fatte. Allora c'è modo e modo, appunto, come diceva Maurizio, purtroppo questa cosa di genere, oppure ci sono grandi interpreti come Jeff Buckley, ad esempio, che mi rifà un Alleluia di Leonard Cohen piuttosto che un Edith Piaf, piuttosto che un Van Morrison, e là ragazzi, c'è la classe. Molti sospettano che Alleluia sia di Jeff Buckley, è di Leonard Cohen, però da adesso è stato portato alla conoscenza del più esattamente da Jeff Buckley, ma io penso che a chi interessa veramente poi la cosa va in cerca. Sì, sono d'accordo. Radici. Almeno io ho sempre fatto così, vado poi a cercarmi quello che è stato, appunto. Sì, ma mia era una provocazione, chiaramente. Sì, anche perché Alleluia, cantata da Buckley rispetto a Cohen, sono tutte due diverse interpretazioni della sono stessa molto, canzone. No, infatti è quello che dicevo prima. Ecco, anche una stessa diciamo, anche le cover di Nina Simone che lui ha fatto comunque sono comunque la stessa Laila Quine piuttosto che The Way Young Lovers Do di Van Morrison. Se ascoltate in originale, quindi dagli autori di questi pezzi, sembrano delle altre canzoni, cioè certo. Quella è la cosa bella, cioè nel senso, quando un artista riprende un pezzo che in qualche modo l'ha segnato, perché io credo che il fatto di fare queste canzoni qua, di rifare delle cover, anche di mettere in un disco poi che è il disco d'uscita, vuol dire che l'hanno segnato parecchio questo nel suo percorso, certo, musicale. E quindi il fatto di poterle prendere, rivisitare, riproporle in questo modo, quindi farle arrivare al pubblico in un'altra versione, proprio da chiedersi ma è la stessa, cioè è originale o non, certo, è originale questo, certo, pezzo? È là la cover, no? Prendere una canzone e risuonarla uguale, perché sennò non ha senso farlo. L'ha detto anche Bono per Johnny Cash con Guante, ti ricordi? L'ha fatto meglio di me, l'ha detto a Bono all'epoca. Johnny Cash l'ha fatto in modo meraviglioso. Johnny Cash, che aveva fatto anche Alleluia, tra le altre cose. Sì, beh, lui ha fatto tante. Beh, Johnny Cash è un altro. L'uomo in nero è una cosa straordinaria. Ho visto, a proposito di Johnny Cash, e finisco qua, l'ho visto proprio ieri sera a ore tarde, sai che io vedo le cose a ore tarde. Sì, c'è sì. Un concerto di Johnny Cash. Ragazzi, mi sono alzato in piedi, sono rimasto 10 minuti in piedi, non devo fare altrimenti. Per chi non ha visto il film sulla vita di Johnny Cash, consiglio caldamente di guardarlo. Sì, ma per sentire anche l'Alleluia cantato da Johnny Cash, si può andare anche a vedersi il cartone animato di Shrek, che ha un'ottima colonna sonora e c'ha anche questa Alleluia in un momento davvero commovente del cartone animato. Ma questa è la cosa bellissima che hai detto, io non lo sapevo questa cosa qua, del fatto che comunque i cartoni animati, le animazioni così ultimamente, sì, sono molto belle. No, davvero, Diego, mi trovo d'accordo su questo, anche il Toy Story 3 piuttosto, sì, che sì. E il fatto che abbiano un messaggio, ok, e più abbiano una colonna musicale che ha un altro messaggio, è bellissima questa cosa. Bene, allora, visto che siete qua con gli strumenti, i microfoni e tutto, cosa dite? Facciamo un pezzo? Che sorpresa ci fate? World and City, prossimo. Beh, aiuto, ci ho parlato sul microfono. Facciamo un brano che sarà incluso nel prossimo album che inizieremo a registrare quest'estate. È già tutto pronto praticamente. Aspettiamo le ferie per avere un po' di tempo per iniziare le registrazioni. Si chiama This River. Basta. Basta. Andiamo. Blu Radio Sera. I wish you were all alone. Radio Sera. Ed eccoci qua tornati in diretta all'interno di Blu Radio Veneto. Siamo con i Warren City per la presentazione del loro ultimo lavoro che si intitola Secret Wings, ma non solo, anche per ascoltare pezzi del nuovo lavoro. Perlomeno Fabrizio ci ha detto questo e si è rivelato una cosa che non sapevamo, proprio quasi da scoop, chiamiamolo così. Come si intitolava questo pezzo? Questo pezzo si chiamava This River. Vai. Pronto, eccolo qua. Ecco, avvicino al microfono. Benissimo. Spostiamo quell'altro. Esatto. Questo. Stacco la spina. Ok. No, la spina adesso si chiamava This River. This River. Sì, ormai diciamo che abbiamo una buona quantità di pezzi per tornare in studio. E dopo, infatti, abbiamo deciso di farvene sentire degli altri di inediti, ecco, di non pubblicati. Questo è veramente un pezzo molto interessante. A me è piaciuta molto la batteria, gli stacchi che dava il nostro batterista, dava proprio la spinta agli altri componenti della band, chiaramente, e il nostro cantante si dava da fare, chiaramente, faceva parte del... L'idea di questo pezzo molto interessante, come l'avete, quante volte l'avete suonato questo ovviamente pezzo? Ovviamente in versione acustica. È in versione acustica, in versione elettrica come sarà? È molto potente, diciamo. Che quello io ho sentito, facciamo, già lui come dava quello il che facciamo oggi in versione acustica è ovviamente una versione appositamente arrangiata. Nelle versioni originali avremo lo stesso tipo di sonorità, anzi un pochino più accentuato, che abbiamo nell'album che oggi ascoltiamo, diciamo, qui in trasmissione. Quindi chitarre molto presenti, suono sempre molto asciutto. Anzi, probabilmente faremo anche un tipo di registrazione un po' diverso, un processo di registrazione un po' diversa, quindi cercando di avere una registrazione anche più live possibile. Beh, questo è sicuramente l'idea di fare di registrare come live, è una cosa molto interessante. Non dico al primo tocco, però chiaramente essendo quasi live è anche rischioso, però essendo quasi live dovete essere sicuri al 100% o no? È così? Ma sono brani che noi ormai, diciamo, stiamo proponendo live da un paio di mesi. e quindi diciamo sui brani ci sentiamo abbastanza tranquilli, ecco. Sì, una cosa da dire innanzitutto è che a differenza dell'album che stiamo ascoltando questa sera, che certo, è stato registrato quindi singolarmente, traccia per traccia, e è stato poco suonato dalla band, nel senso che in sovraincisione, quindi no poco suonato, nel senso che volevo intendere che abbiamo avuto poco modo di poter creare coesione tra di noi, perché fatalità, siamo entrati in studio e le cose sono venute fuori e abbiamo cominciato a registrare praticamente immediatamente. Michele era appena arrivato, esatto, quindi diciamo non era ancora la coesione del gruppo, sì, la pasta le sonora. Le canzoni sono nate e sono finite nel disco praticamente subito. Invece questo altro disco che verrà quest'estate è un disco che è stato messo alla prova, nel senso che abbiamo creato veramente un mood nostro. Abbiamo avuto modo di suonarlo live, ecco. Esatto, e sicuramente di suonarlo di più anche, se vogliamo. E Flavio, cosa dici? Questa è una cosa molto positiva, provare i pezzi nuovi dal vivo, e poi chiaramente l'ultima stesura sarà quella definitiva in studio, però è già pronto, visto questo pezzo è praticamente formato. Assolutamente. Qui l'avete fatto unplugged o quasi, mica tanto unplugged. È giusto che purtroppo sto dietro la batteria, perciò non riesco a raggiungere i microfoni. Puoi prendere anche quello grande. Vorrei parlare per tutta la sera per voi, ma no, proprio ecco, fisicamente impossibile. Ecco, prendiamo con quello là. Perfetto. Okay. Vai, vai. Bene. Me la tiro ancora più, ecco, perfetto. Ok, mi sentite? Sì, volevo dire una cosa su questo pezzo. Questo pezzo qui, This River, quello che abbiamo appena suonato e che appunto sarà nel prossimo disco che faremo. Probabilmente sarà pure la prima traccia, perché c'ha l'aria da prima traccia. È nato, ovviamente c'era un piccolo canovaccio preparato da Fabrizio, però praticamente montando la batteria, gli strumenti, accordando un attimo, abbiamo provato, e la versione che avete sentito stasera è nata esattamente in 5 minuti montando gli strumenti. Come la sentite, come struttura, eccetera? Quello è stato un po' il primo pezzo di una lunga serie, nati così, uno degli ultimi che però stasera non suoneremo, uno degli ultimi che abbiamo fatto, un pezzo che si intitola Yeah, che è nato nell'ultimo quarto d'ora con il tipo della sala prove che ci dice: ragazzi, è ora, sì ok, un ultimo pezzo, abbiamo composto un ultimo pezzo. No, sono molto contento di suonare in un gruppo simile, nel senso che io ho gusti forse anche molto diversi da questo tipo di musica, appunto il progressive che dicevo prima, io suono anche jazz, suono latin, tutte altre cose più batteristiche forse, però con questo gruppo qui c'è una specie di magia strana che non riesco a comprendere. I pezzi nascono con una facilità come fare cioccolatini, insomma. Io non li so fare i cioccolatini, però penso che per gli artigiani, insomma, comunque ne fanno tanti, no? Delle scatole intere. Ecco, niente, questo volevo precisare. Bene, questa è la magia del rock and roll, sì, vorrei dire. Guarda, mi hai rubato le parole di bocca, perché effettivamente trovarsi insieme per fare musica in questa maniera, come dicevo prima anche Maurizio, così democratica e senza limiti, è davvero proprio la magia del rock and roll. Beh, infatti aggiungo quest'ultima cosa, Diego l'ha accennato, però è la verità, noi siamo in quattro e veniamo da quattro scuole di pensiero, penso più o meno molto differenti tra di loro, cioè siamo cresciuti ognuno ascoltando le cose diverse, quindi probabilmente questo connubio di idee messo giù tra di noi fa sì che si riesca a comporre in questa maniera qua. Bene. Sì, ma c'è un'energia particolare tra di noi. Questo. No, un'energia umana, intendo. È qualcosa. Umana. Adesso Michele. Umana. Che è vero, sì, c'è una un'empatia. Un'empatia, sì. Chiamiamola anche alchimia, vabbè. Sì. Perfetto, allora diamo spazio ancora alla vostra musica, World End City, sempre dal vostro lavoro che si intitola Secret Wings, e andiamo ad ascoltare la traccia numero 5 che si intitola Roller Coaster, e poi torniamo a commentarla insieme qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Such a nice day, may I Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato l'ennesima canzone energica proposta da Sony World and City, questa roller coaster che è iniziata con un giro di basso veramente tra il rock e il funky. Fabrizio. Sì, questa è una canzone, è una di quelle che amo di più, devo dire. Si sente. Il basso, non tanto per il giro del basso, insomma, ma perché sì, è costruita volutamente con delle chitarre molto grezze, con una batteria molto insistente, molto ritmica. Poi ha un testo che è un po' l'inno al rock and roll, no? Quindi poi ricorda comunque le sonorità del vecchio rock and roll, proprio così, così chiamato. Sì, che sì. Con rock and roll oggi si abbraccia un genere molto ampio, però il vero rock and roll. Cercano di far passare anche Norah Jones come rock and roll fra poco. Vabbè, anche il distorsore. Esatto. Sì, beh, ha fatto un disco mica male, non ha ragione sull'ultimo, ha fatto un disco di partecipazione con altri, per riuscire a vendere qualcosa. No, scherziamo, è brava, lei è molto brava, però ha fatto un disco interessante, anche Ryan Adams, che da non confondere con Brian Adams. No, Ryan Adams esatto, è un altro, è molto bravo, e ha fatto un disco con Norah Jones, Ryan Adams, un musicista americano. Tra l'altro ha fatto una versione acustica, chitarra voce, di una canzone degli Oasis che è Wonderwall. Ah, perfetto, è vero, sì, benissimo. E secondo me eccezionale. Se non l'avete mai sentita andate su YouTube, Ryan non Adams adesso. Wonder non adesso, no, adesso, non adesso. Andate a ascoltarla perché è veramente bella. Eccola, a volte ci sono, no, quando dici la cover è più bella dell'originale, secondo me è più bella dell'originale, chiusa parentesi. E a proposito, adesso parliamo di te, hai visto com'è che il progetto che hai trip hop di nome Catherine Hush? Catherine Hush è un progetto parallelo che ho con oltre World and City. Sì. Ed è un progetto completamente differente, è un progetto molto ambizioso, molto bello secondo me, e ci sta anche dando delle soddisfazioni. È un progetto appunto trip hop che, come dicevamo prima, no? Sì, a microfoni spenti. Esatto, praticamente non è che faccia proprio parte del mio background musicale, però lavorando appunto con questi musicisti, con Stefano Calore e Massimo Di Leo, che sono due ottimi professionisti, sono entrato anche io in questo ambito, no? In questo nuovo ambito, di queste sonorità scure, di questi testi un po' molto dark, e questo genere che ti culla, ecco. Ed è stato un ingresso in sordina per poi diventare una passione, e quindi ecco da qua che Catherine Hush. Portiamo avanti queste due. Catherine Hush è una musicista inglese molto famosa. Catherine Hush in realtà è il nome di un personaggio di un libro. Sì, però ma che allora la pronuncia forse Catherine Hush era una musicista inglese. È una musicista inglese. Guarda, no, qua forse mi cogli senza H, senza H, senza H. Mi cogli in fallo perché non la conosco. Cioè, la pronuncia è così, in ogni caso. È interessante, quella faceva musica tra gli 80 e i 90. Andrò dai un'occhiata, sì, era molto brava. Buona memoria. È anche bionda, mi sembrava, come capelli, non mi ricordo. No, guarda, cercheremo in internet, visto che ormai abbiamo quest'arma davvero favolosa che ci permette di spaziare in lungo e in largo nei percorsi musicali, vedremo di fare chiarezza anche su questa Catherine Hush, o Ash come si vuol dire. Ma torniamo a parlare della musica di World and City. Se avete ancora voglia di suonare, mi avete confermato di sì, direi di ascoltare un altro pezzo. Ci proponete ancora qualcosa di nuovo o qualcosa del vostro album? Sì, qualcosa di nuovo, quindi del prossimo album. Il brano si chiama Gold. Ci siamo? Say help you shine tonight. Never sing a sigh, sorry I'm from inside. Cause I believe the light to the fight. Fear is gone, it's gone. I believe the teardrop you shed tonight. Never need a light, sorry I'm from inside. Cause I believe the light to the fight. Fear is gone, it's gone. Radio Sera. Ed eccoci qua ancora una volta con la musica dei World End City qui all'interno delle frequenze di Blu Radio Veneto. Siamo qua ancora io e Maurizio a colloquiare piacevolmente assieme ai World End City per conoscere qualcosa di più della loro musica, del loro Secret Wings, ma non solo, perché ci stanno proponendo anche dei brani assolutamente voglio dire, tra le prime volte, e noi penso sia la prima volta che li proponete in radio. In radio sì. Beh, bene, assolutamente quindi... sì. No, è la prima volta che suoniamo proprio in radio, questa è la verità. Perfetto. Bene, perché quindi... quello che diceva prima Fabrizio, questo set acustico l'abbiamo messo a punto la settimana scorsa proprio per ad hoc, per questa occasione. Siamo molto onorati, Flavio, per questo. Beh, a questo punto vorrei anche spendere proprio un ringraziamento da parte nostra, Blu Radio, che devo dire è forse l'unica, se non una delle pochissime realtà che permette di proporre della musica live, perché ce n'è sempre tanto poca. Poi un merito ancora di più, perché oltre che essere live, proponete musica originale, e anche questo se ne sente davvero poca, cioè pochi sono gli spazi, direi, qui a Padova, visto che stiamo trasmettendo da Padova, pochi sono gli spazi, poche sono le possibilità. Ed è un peccato, perché poi si scoprono tante piccole realtà che avrebbero, non sto in questo momento parlando per forza di noi, ma tante persone, musicisti, avrebbero tanto da dire, non ci sono gli spazi, insomma, ed è veramente un peccato. Per cui grazie Blu Radio. Grazie a voi. Nella tua biografia hai scritto, no, avete scritto, qualcuno ha scritto: non staccategli la spina mentre sta suonando qualcosa altro. Qualsiasi altra cosa non conta. E difatti, a proposito di staccarti la spina, hai fatto un bel giro quasi blues alla fine del pezzo. Era una ballad all'inizio, però la ballad poi si è sviluppata in un altro senso, secondo me. È vero oppure no? Beh, assolutamente sì. Questo è un pezzo che nella versione, diciamo così, elettrica, sicuramente ha molto da dire. Sia come premi sull'acceleratore. Esatto, sì. Per cui anche se abbiamo gli ascoltatori non possono vedere, però questi tasti, questi da premere per abbiamo fare i suoni. Setup che mi porto sempre dietro, da cui non mi separo mai. Ecco. E, sicuramente suonando, anche se abbiamo preparato questo setup acustico, dentro di noi sentiamo l'energia che abbiamo quando, e per cui la suoniamo in maniera con gli strumenti elettrici, e credo che questo si senta suonandola. A un certo punto ci diamo dentro, ecco. Sì, ma è bello, Flavio, ripeto, questi sono pezzi nuovi, assolutamente nuovi, e provati qua, cioè allargati qua. Per noi è una cosa molto positiva, secondo me. Assolutamente, siamo emozionatissimi di fronte a quanto ci stanno regalando i World Dance City in questo momento. È peccato che non si possa vedere i gesti di Michele. Sì, di Michele, che voleva quasi abbracciarmi. Vabbè, allora ricordiamo anche quelli che sono i nostri numeri di SMS, se volete mandare qualche messaggino per sapere qualcosa di più dei World Dance City: 346 23 20 033. Ecco qua, ripeto: 346 23 20 033. Maurizio. Sì, no, un'altra cosa che ho letto nelle biografie, io ho spulciato. Dunque, abbiamo parlato prima di Michele, abbiamo parlato di Fabrizio, del suo. A proposito, scegli Led Zeppelin o Fatboy Slim? Ah, bella scelta. Bella domanda. Bella domanda. Diciamo che ho gusti musicali abbastanza trasversali. Mm. Per cui ascolto veramente di tutto, tranne il liscio, l'opera e il latina, il latin. Per il resto ascolto veramente di tutto, cioè a 360 gradi. A 360 gradi, per cui adesso non so, posso ascoltare Speranza Spalding piuttosto che di Alberta Cross, ecco, per cui ho capito. Tra l'altro io ho visto anche dal vivo di Alberta Cross. Ah, fantastico. Ho avuto la fortuna, sì. Bene. Hanno aperto Dave Matthews a Padova l'anno scorso. Ah, grandissimo concerto con Dave Matthews, eh. Ah, immenso concerto, uno che ha fatto non so quanti live, quindi triple live anche Dave Matthews. Beh, Flavio. Sì, è una potenza di suono spaventosa, devi mettere. Non solamente loro, ma adesso che hanno detto Alberta Cross, io sono rimasto stupito di fronte ai vari live che propongono su YouTube. È veramente un'energia sono incredibile. Forti. Beh, c'è un altro gruppo che, visto che parliamo di cose che ascoltiamo quando c'è la possibilità, c'è un altro gruppo che mi è piaciuto tantissimo e che sono i Wolf Mother, australiani, sì. Che hanno un suono un po' simile, un po' molto 70s, che ricordano un po' questa sonorità degli Alberta Cross. Una cosa, chiediamo una cosa al batterista, visto che hai citato il gruppo jazz, cioè hai citato che suoni jazz, c'hai un gruppo, mi pare, no? Io ho vari gruppi. Mm. Anch'io mi muovo in vari ambiti. Smoke and Fish, sì, con fish. Loro facciamo un etno jazz ambiente. Cioè, cosa vuol dire etno jazz? Etno perché ci sono anche delle poliritmie all'interno dei brani che ricordano un po' anche l'Africa in un certo senso, altre cose. Poi i testi dei pezzi sono in portoghese, in francese, in varie lingue. Ci sono varie atmosfere, per quello che lo chiamiamo. È una cosa interessante. È una componente. Mm. Comunque si ispira un po', diciamo, ai weather report rivisti e modernizzati. Beh, ecco, perciò, ma c'è anche dell'acid jazz all'interno. Weather report. Rap, perciò molto contaminato, sì, Weather Report, proprio per sì, dire, sì, certo. Io non perché sono una passione del tastierista. Io amavo Guido Rosa. Sì, d'accordo. Io amavo moltissimamente i Weather Report per un disco, I Sing the Body Electric. Ah, il primo? Esattamente, perché il disco era il disco più rock. Dopo sì, chiaramente si sono portati un po' in altri tutti. Io, Flavio li conosce meglio di me i Weather Report, chiaramente. Ma sì, diciamo che mi piace molto quel il doppio 8 e 30, giustamente, dove sono c'è un concentrato di jazz. Sì, non è l'allungamo di più. È di musica sperimentale, anche se vogliamo. Sì, a parte che sono appunto brani live, perciò di pezzi che sono stati fatti in studio, sono più interessanti forse in studio, comunque, perché in live insomma, sono un po' più così. E, diciamo stavamo parlando dei miei gusti, comunque non è che ascolto solo jazz. Se proprio voglio sintetizzare, perché non è che abbiamo tutta la sera, potrei fare dei nomi che proprio chiudono il cerchio. Sai perché in abbiamo questo periodo un disco che sto sentendo tantissimo è l'ultimo disco di Laurie Anderson, che per me quale? L'ultimissimo che ha fatto? Homeland, sì, che è bellissimo. Il penultimo era in Life and on String, certo, 10 anni fa, perciò. E poi il funky mi piace, mi piacciono i Tower of Power. Ho un gruppo che tributo Tower of Power, facciamo tutti i pezzi di Tower, perché tecnicamente, batteristicamente mi soddisfa, insomma, certo. I batteristi sono un po' così, sono sì, un po' fra l'intellettuale e il fisico bestiale, no? Praticamente i due opposti, e perciò per forza devi rimbalzare da un genere all'altro. Sai perché ti abbiamo fatto questa domanda, Flavio lo sa, perché noi volevamo arrivare a quello, i famosi dischi da portare su un'isola deserta. Questo era il motivo. E poi faccio un'ultima domanda a Diego, poi passiamo anche qualcuno dei Beatles anche porterei. Bene. Revolver sicuramente. Ok. Mi ricordo che tu eri anche uno sfegatato seguace dei Queen. No, io no, per niente direi, non mi sono piaciuti tantissimo. Ho fatto uno spettacolo dei Queen dove appunto avevo in veste di batterista e anche direttore, riarrangiatore, diciamo. Pur non per la Padova Danza ho fatto un musical, un balletto solo praticamente. Per soldi. No, se insomma, se fosse per quello. No, mi piace tutta la musica fatta bene. I Queen sono un po' così, un po' troppo Claymore. No, troppo, come si dice, enfatici, ecco, per i miei gusti. Claymore. Però sono grandissimo gruppo, mi sono divertito moltissimo. Tra l'altro Antonio, il chitarrista stasera ha collaborato, non lo so domani se sarà ancora, comunque io il batterista. Antonio mi ha aiutato in quel progetto dei Queen che si chiamava Omaggio ai Queen, come arrangiatore dei cori, che come sapete nei Queen sono importanti, sono fondamentali. Lui ha una grande esperienza in come arrangiamenti di cori eccetera, perciò ho chiamato lui quella volta. Non sono un appassionato di Queen, no, direi di no, però l'ho fatto per così, professionalmente. Bene, adesso sentiamo anche i gusti musicali degli altri componenti del gruppo, ovvero quello che è il background per poi uscire allo scoperto proponendo queste musiche. Allora, Antonio. Ah. Ti ho visto un po' distratto, facevi finta di niente, quasi a rimandare l'interrogazione a domani. Io forse tra tutti sono quello che ha un po' rimasto attaccato a gusti, forse definiamoli se vogliamo anche un po' vecchi. No, ci sono anch'io. Ecco, anch'io. Nel senso che sono tra tutti e quattro forse quello che ascolta di meno novità, ecco, anche se poi quando mi propose subito cerco di assorbire. Sono per cui non so, io tutto quello che la musica rock degli anni 60-70 sicuramente, gli anni 80 non mi hanno fatto impazzire, tranne i fantastici e unici Police, che è l'unico gruppo degli anni 80 secondo me degno di potersi chiamare questo nome. Ascolto molto anche classica sicuramente, anche perché insomma gli studi che ho fatto mi hanno portato ad ascoltarne parecchia. Non mi chiedere quali dischi portare su un'isola deserta, perché sarei veramente in grosso imbarazzo. Sicuramente qualcosa di Beatles, qualcosa di classico. Non serve che glielo chieda. Esatto, il primo dei Chicago. Eccolo. Il primo di Chicago che... No, il doppio, Transit Authority, no? Quello. Esatto, sì. Quello lì, bravo, il primo che non molti conoscono, ma che io mi ho consumato. Dobbiamo stare in piedi tutti, Flavio, perché Chicago Transit Authority, ragazzi, è una cosa strepitosa. Sì, un disco... Night and Day di Joe Jackson, sì. Ecco, basta, per cui come vedete... Comunque sopra l'entrata della mia stanzetta musica campeggiano i Beatles in un così in un quadro in enorme che mi danno il benvenuto quando entro e mi salutano quando esco. Bene, comunque allora... vorrei dire posso due parole. Sì. A parte sul discorso dei gusti, diciamo, vecchi, cioè, i ragazzi, e questo lo dico per esperienza personale, di qui 14, 15, 16 anni hanno gli MP3 stracolmi di musica degli anni 70. Ho i miei figli, gli amici dei miei figli vengono a saccheggiare letteralmente la discografia di quegli anni e poi la mettono accanto a Lady Gaga. Quindi hanno veramente, secondo me, il beneficio, raccolgono l'esperienza di 40 anni di musica e hanno il vantaggio di poterla riassorbire, riascoltare con la trasparenza e la purezza di chi non si è fatto ingabbiare. Ah, tu sei quello degli anni 70, no, tu sei quello degli anni 80, no, se hai ascoltato la musica degli anni 80, quello degli anni 2000 non mi deve piacere. Invece è tutto fluido, tutto patrimonio comune e credo che questa sia una cosa fantastica, assolutamente sì. Fantastica. Bene, allora a proposito di cose fantastiche, andiamo ad ascoltare un altro pezzo del vostro disco e per continuare intanto noi prendiamo un po' di fiato perché poi ci sono ancora dei pezzi live che vogliamo ascoltare, andiamo... ad ascoltare per l'appunto la traccia numero 8 di Secret Wings che si intitola A Life to Tell e poi torniamo a commentarla nei nostri studi qui a Blu Radio Veneto assieme a Maurizio Calzavara, Flavio Bilato e assieme ai World and City. Blu Radio Sera. See you're changing day after day. Who's gonna tell you what's the right way? You are so fast. You're gonna make it all on your own. While I'm fading out, you're opening the show. Strifer and applause from people who don't care to know your dreams will last. You're gonna make it all on your own. You're on. Gonna make it. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed abbiamo ascoltato anche questo bel pezzo, assolutamente più moderato rispetto agli altri che abbiamo ascoltato prima, Life to Tell, veramente una grande ballata. A cantarla e a suonarla sono i Warden City, da questo loro lavoro che si intitola Secret Wings. Ricordiamo una cosa, ragazzi, la produzione del disco è tutta vostra, autoprodotto praticamente? Assolutamente sì, è tutta gestita da noi, non c'è stato nessun supporto se non appunto a livello di registrazione. Ci siamo appoggiati, e per quanto riguarda la registrazione delle batterie ovviamente, ad uno studio, un grandissimo amico che qui voglio ricordare, che è Mauro Santinello del Trucolo Studio. Grandissimo tecnico e oltre che amico. Il resto è stato fatto nel nostro studio, diciamo, quindi in casa, missato e masterizzato invece negli Stati Uniti. Ah, però. Per dargli un colore un po' diverso, e l'ha masterizzato Brian Lucy del Magic Garden, che è lo stesso che ha masterizzato i Black Keys, l'ultimo dei Black Keys. Bene. Ed è tornato, è andato, che aveva una sonorità molto più british, è tornato con un impasto più denso da Delta, quasi da Delta Blues, insomma, quindi è stata una bella sorpresa. Poi ricordiamo che il libretto è stato fatto anche le fotografie dentro il libretto sono di tuoi figli praticamente. Sì, ma vari amici che hanno collaborato e hanno tirato fuori questa cosa. Bene, cosa molto positiva. Adesso, sotto mia pressione, Flavio, c'è poco da fare, io ho deciso che loro devono eseguire Invisible, che è un pezzo meraviglioso secondo me, sia nella versione acustica sia nella versione poi elettrica, chiaramente stasera sarà pseudo acustica, che è trainante, molto interessante, e io parlavo a microfoni spenti, poteva essere sicuramente un pezzo che poteva essere lanciato abbastanza bene. Ma sì, direi che anche comunque l'impatto del CD sia nelle due versioni, quindi quella un po' più rock e quella invece unplugged, dove ci sono tutte sonorità acustiche, voglio dire, non so quale delle due premiare, direi a pari merito per numero uno. Sì, noi a pari merito sono d'accordo con te, però noi abbiamo primato, abbiamo scelto la versione unplugged per farla sentire per un mese consecutivo, è una mia scelta, e anche del nostro direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo, che ci sta ascoltando. Ci stiamo inchinando tutti. Direttore. Va bene, allora ascoltiamo questi due pezzi del World End City, e noi, Maurizio, non fiatiamo più. Sì, il secondo brano, che sempre sotto pressione qua, saremmo costretti, adesso voi non mi vedete ma ho la schiena piena di frustate, sarà allora un brano che si chiama Supposed to be a Love Song. E anche questo farà parte del prossimo anno. Quindi facciamo una sorta di messaggio così, alla vacca la spacca così come viene. Benissimo, allora accettiamo tutto questo perché siamo in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto con il World End City. It's too late for me to come, to figure out my days are just a miracle. The TV show must end and turn up loads. thinks of all. If the words in our hands were as love and love, or where's the pride of what I see is a naked man? Not trying to learn the score that he should play. Radio Sera. Ci siamo ascoltati due pezzi davvero fantastici, Maurizio. Prima Invincible e poi una new entry, possiamo dirla così, non l'avevamo mai ascoltata prima, Supposed to be a Love Song, fantastica davvero. Sì, hanno ricreato un pezzo di California bellissimo. Invincible era molto californiano, l'altra era un po' più, è un po' diversa, però anche quella molto interessante. Poi il legamento è stato totale, senza nessun problema. Il nostro grande batterista ha chiaramente fatto il terreno e poi lentamente gli strumenti si sono sviluppati. Io e la Chiara e Flavio abbiamo applaudito perché sono due pezzi veramente molto molto belli. L'atmosfera, sono le 22:16, hanno creato un'atmosfera incredibile. Complimenti, vivissimi. Grazie. Bene, vogliono il bis dopo, alla fine fai una reprise. Paganini non ripete, ma potete fare una reprise. Prima della fine facciamo un altro brano nuovo del nuovo, album. Okay. Credo che molto bene. Una cosa molto interessante. A proposito dell'album nuovo, c'è una variazione rispetto. Avevate detto di sì, ma c'è un allargamento degli orizzonti musicali nell'album nuovo. C'è uno sviluppo, voglio dire questo. Sì, siamo ancora più cattivi. Sì. Ah, siete ancora più cattivi. Io pensavo uno sviluppo al contrario, cioè meno cattivi. No. In effetti, noi nella piena tradizione, diciamo, rock, alterniamo pezzi molto grintosi, molto carichi, a ballad molto acustiche. Per cui ci sono sicuramente canzoni come quella che abbiamo appena eseguito, che sono molto acustiche, molto di così d'atmosfera, e che vanno invece su brani che sono, che questa sera non facciamo. Ho capito. Ma che sono al limite del punk rock. Ah, ok. E quindi diciamo che sarà un album più, credo, più omogeneo come sonorità complessiva e come intento. Ho capito. Mentre quello precedente, quello che voi avete in mano, era nato, come dire, comunque nel tentativo di trovare una strada, no? Nel tentativo di indirizzarsi. Possiamo dire che l'album precedente, cioè l'album, il primo album in uscita, era l'album dei pezzi già costruiti, una specie, non dico un greatest hits, però questo invece è l'album nuovo, cioè il nuovo album è un album di trasformazione, di andare avanti praticamente. Sì, rappresenta un anno di lavoro fatto insieme. Chiaramente sì. Flavio. Che poi un'ulteriore conferma viene data, adesso abbiamo parlato anche di punk, quindi di cose dure, e diciamo che chi sa fare bene il rock duro sa fare bene anche le ballate, o perlomeno anche i grandi gruppi in giro per il mondo ci hanno insegnato questo. Ci vuole sentimento in tutti e due i casi. Certo. Ci vuole del sentimento. Però è vero che sia forte che... Ma il discorso delicato. Flavio ha detto una cosa giusta. Di solito i gruppi che fanno rock anche abbastanza duro hanno una specialità, quella di fare dei pezzi acustici molto molto belli. È ancora una caratteristica dei non dico dei gruppi hard, però i gruppi che fanno rock potente hanno questa caratteristica di fare queste perle acustiche. Come dimenticarsi di Patience dei Guns N' Roses. Ah sì, questo è vero, è verissimo. Ma quella degli Extreme è un esempio. Anche quelli degli Extreme, un album durissimo, mentre quel pezzo... E anche Stairway to Heaven. E anche quello, è certo, i LED, i mitici LED. Ok. Bene, ce ne sarebbero tantissimi altri di titoli, ma visto che siamo quasi verso la fine della trasmissione, direi che è bene prenderci una pausa ascoltando un altro pezzo dal disco per poi ritornare e fare un gran finale live. Per cui abbiamo scelto Still per ascoltarla insieme. Se siete d'accordo, carissimi World and City? L'avete detto? Assolutamente. Nulla in contrario? Benissimo, allora ascoltiamo questa Still. Blu Radio Sera. I'm standing still, waiting for what will be. I'm on a dark edge of a prophecy. Believe me, don't believe me. Future as the wings, you gave it. I'm standing still, no moves, no energy. The final stage of a tragedy. Believe me, don't believe. You gave it. Radio Sera. Ci sarebbe stata una lunga suite musicale da ascoltare ancora all'interno di questo pezzo, però abbiamo dovuto tagliarla per lasciare spazio ancora ad altre musiche, sempre con i World End City, che sono qui in questa serata a presentarci il loro CD Secret Wings, non solo, anche pezzi di un nuovo album di cui ancora non sappiamo il nome. Vabbè, Per inciso sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, sì, volevo ricordare che la voce femminile che si sente, la solista, è quella di Paolo Casula, che è una delle più brave e più talentuose cantanti padovane. Sì, cantanti quindi, di gospel jazz. Esatto, e sì, quindi era giusto ricordarlo. Certo. Un po' di informazione di servizio allora, dimmi. Sì, beh, noi abbiamo un nostro sito che è www.wecity, quindi wecity.org, e lì si trova, sono le iniziali di World End City .org, lì si trovano tutte le notizie sul gruppo, gli appuntamenti, le novità e le date live. Abbiamo anche una pagina su Bandcamp, quindi worldencity.bandcamp.com, dove si possono ascoltare i pezzi, scaricarli in MP3 o anche in WAV. Si possono leggere tutti i testi, quindi è, diciamo, una pagina importante di consultazione che va a completare le informazioni che ci sono sul nostro sito ufficiale. Se uno vuole materialmente il CD, ovviamente, essendo autoprodotto, non ha un distributore, quindi chi vuole la copia fisica o viene ai nostri concerti oppure ci manda una mail, cioè sul sito trova anche l'indirizzo mail e noi ben volentieri gliela inviamo. Abbiamo, per quanto riguarda le date live, la prossima data è allo Stardust qui a Padova il 29 di luglio. E ovviamente chi volesse proporci altre date e spazi, ovviamente siamo ben contenti di accettarle, ecco. Benissimo, allora noi ringraziamo i Warden City, quindi grazie ad Antonio, a Michele, a Diego e a Fabrizio per averci regalato questa serata piena di musica assolutamente interessante. E quindi Secret Wings, ma non solo, all'interno di questa trasmissione. Ci lasciate con un pezzo, Fabrizio? Sì, è un pezzo anche questo che sarà nel nuovo album. Anche questo è un brano un pochino più, diciamo, meditativo, però a cui ci teniamo molto, soprattutto per il messaggio, nel senso che parla del vero amore, e che qui viene, diciamo, raffigurato come acqua che lava l'anima. Ecco, quindi il brano si chiama Water That Washes. Benissimo, allora, grazie a tutti voi ancora. Grazie ai Warden City, e ci vediamo presto, naturalmente, anche dopo le vacanze, con il nuovo album. Questa è una promessa che vi strappiamo, che bisogna mantenere, grazie. Assolutamente sì. Allora, Maurizio, l'appuntamento per domani sera abbiamo i Riafiora. Una band padovana che tu conosci? Assolutamente sì, mi piacciono anche molto. Esattamente, hai fatto un nuovo album, si chiama La Marsigliese, mi pare il nome della band, dell'album nuovo. Domani sera Iria Fiora con Michele Tosoni in regia dalle 22 alle 24 live a Rockway, come sempre. Benissimo, allora noi ce ne andiamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Un grande caloroso ciao e buona serata. Vi lasciamo con i microfoni tutti per i World End City. Grazie e buonasera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto.